Prima di iniziare con la lettura della terza parte di Donne guerriere di Jeanine Davis Kimball, vorrei, come Devana, condividere il racconto del mio incontro in Araucanía, nel sud del Cile, con una leader e sciamana mapuche, la Lonco Rosa Quiñenao. L'incontro avvenne nel 2014 ed è riportato nel mio articolo Viaggio in Cile nel sito Devana Vision, di cui lascio il link in descrizione. Il racconto confermerà che in origine furono solo le donne ad essere sciamane, proprio come dice Jeanine Davis Kimball, in qualunque parte del mondo, poiché le donne sono collegate all'energia della Grande Madre tramite l'utero. Nelle comunità matrifocali neolitiche, la sciamana era la matriarca, la madre del clan, che invocava le anime di coloro che avevano lasciato il corpo a tornare nel clan incarnandosi in nuovi corpi. Non esisteva il concetto di male o malattia, e tantomeno che le anime venissero rubate da spiriti cattivi, come vuole lo sciamanismo oggi, e che lo sciamano dovesse andarle a riprendere. In quella pacifica cultura era la madre del clan o sciamana a invitare le anime a tornare, non perché fossero state rapite, ma perché il corpo che le ospitava aveva terminato il suo ciclo. Solo in seguito, con la patriarcalizzazione dell'umanità, gli uomini hanno cominciato a dirsi sciamani, per lo più scimmiottando le donne e vestendosi con abiti femminili. Questo è avvenuto in tutto il globo. Ascoltiamolo dalle parole della Lonco Mapuche Rosa Quiñenao e poi lo sentiremo riconfermato dalla stessa Jeanine riguardo alla tradizione kazaka e mongola. «Ero destinata ad essere maci», racconta Rosa Quiñenao. «Da bambina avevo sogni e visioni e conoscevo per istinto tutte le erbe medicinali. La maci è la donna medicina del mio popolo, della mia etnia e mapuche. Io sono di sangue mapuche al 100%, discendente di una linea di sangue che ha dato natali a cacique, capoguerriero, e diverse lonco e maci. Quando mio nonno si rese conto che avevo il dono, compivo 7 anni. Proprio quell'anno, il 1973, ci fu il colpo di stato di Pinochet e il Cile precipitò nel caos. Il mio popolo, originario, nativo, ricominciò ad essere perseguitato. La mia famiglia non ebbe il coraggio di consegnarmi alla maci per essere iniziata e ricevere l'addestramento. Per proteggermi mi avviarono a una vita ordinaria integrata nella società cilena. Ma quando ebbi 30 anni circa, mi ammalai gravemente e nessuno riusciva a guarirmi, tantomeno le cure ospedaliere. Fu mandata a chiamare l'anziana maci Teresita di Temuco, che venne e mi rivelò quale avrebbe dovuto essere il mio cammino. Mi disse che mi ero ammalata per questo motivo e che dovevo accogliere la carica di responsabilità a cui la mia nascita mi aveva destinata. Ormai era tardi per ricevere l'istruzione da maci, cioè da donna medicina e sciamana, soprattutto la pesantissima preparazione alla trance sciamanica attraverso la quale le maci vengono addestrate a entrare in contatto con il mondo degli spiriti. Però fui nominata Lonco, che significa leader politica e spirituale, una carica ugualmente di grande responsabilità che mi permette di fare tutto quello che fa una maci, guarigioni, predizioni, lettura dei sogni e cerimonie, tranne andare in trance, cosa che io comunque faccio normalmente e istintivamente nel sonno. Posso cantare e suonare il kultrun, il tamburo rituale sciamanico che solo le maci possono maneggiare. Posso indossare le vesti e i gioielli in argento del mio rango, il trarilonco, copricapo, la trapelucucia, il pettorale, il traripel, la collana, e il trariwe, la cintura tessuta con i miei simboli personali, fissata sul fianco con uno spillone. I chaguai, orecchini che si ricevono alla prima mestruazione, e il mio roson sulla fronte coi colori che mi sono stati consegnati dalla maci Teresita, mia insegnante. Il bianco che indica purezza e l'azzurro che indica la connessione con gli antenati e le antenate. La mia cerimonia di iniziazione durò 3 giorni. La maci arrivò il giorno prima e conversammo molto. Poi uscimmo a cercare il lawen, le erbe sacre che servivano per la cerimonia, cannella, alloro e maki, la nostra pianta sacra. Arrivammo a piedi fino al lago Caburga, dove entrammo entrambe per purificarci. Tornammo a casa e ci riposammo fino all'alba. Vennero in 80 alla cerimonia. La maci Teresita cominciò a suonare il kultrun e io continuavo a piangere perché la sua voce, che rappresenta la forza ancestrale della terra, era potente e misteriosa. Ballavamo tutti intorno al rewe, l'altare rituale, E lei mi teneva sempre di fronte al sole, chiedendo agli elementi di benedirmi e di darmi la forza per adempiere al mio compito. Mi percuoteva coi sacri rami Lawen, spruzzandomi con l'acqua che avevamo raccolto il giorno prima nel rio Palguin, conservata in una ciotola di creta, e benedicendo i gioielli con cui mi aveva rivestita, anche se ero completamente bagnata. Mi batteva soprattutto la testa affinché ricordassi il Mapudungun, la lingua del mio popolo Mapuche, che da bambina parlavo e che poi avevo rimosso. La cerimonia durò dall'alba fino a mezzogiorno. Io continuavo a ricevere messaggi dal mondo degli spiriti che stavano facendo riaffiorare in me la forza del mio sangue, mentre tutti pregavano per me. Dopo la cerimonia, io cucinai per tutti. Avevo un po' di fave, piselli, carne, patate e impastai qualche tortiglia di grano. Bevemmo mudai, la leggera bevanda a base di grano fermentato 3 giorni. Certamente non avevo previsto tutti quegli ospiti, ma il cibo si moltiplicava misteriosamente, come nella vostra storia dei pani e dei pesci. Mi fu detto che avrei dovuto riunire le comunità mapuche disperse sulle montagne a causa del golpe. E così feci. Incominciai invitando alla mia tavola quelli che conoscevo. E piano piano ora Pucón è di nuovo una comunità e si celebrano di nuovo le cerimonie sacre del mio popolo. Oggi le donne e gli uomini, anche gli anziani delle altre comunità, mi rispettano e chiedono il mio consiglio per questioni politiche e sociali, e chi si ammala viene da me a farsi curare con le erbe native. Prevedo le tempeste, i terremoti e ricevo messaggi dagli animali e durante i sogni. Credo che il tempo delle donne stia tornando, ma che dobbiamo agire sempre in modo pacifico e amorevole per riportare l'antico sapere femminile nel mondo. Quando mi chiamano a guidare qualche manifestazione politica o di studenti, chiedo sempre che sia pacifica, non violenta. Le vere Maci oggi sono molto poche, le anziane stanno morendo e ci sono poche giovani preparate, un po' perché la dittatura lo ha impedito e un po' perché la terra malata si traduce in una interferenza con la chiamata alle donne. Infatti oggi ci sono Maci uomini che in principio non esistevano e che si vestono da donne nelle cerimonie, cosa che io ritengo non naturale. Queste le parole della leader Mapuche da me incontrata, Rosa Kinyenau, nel 2014. E ora riprendiamo la lettura di Donne guerriere di Janine Davis Kimball. Come dicevamo, la maggior parte delle sciamane e sciamani furono uccisi, definiti pazzi o rinchiusi e sedati per zittire le voci nelle loro teste dal regime sovietico. Nell'ultimo periodo queste antiche pratiche sono ritornate in auge, come ho appreso di prima mano in un viaggio nella Mongolia occidentale nel 1996, quando andai a visitare alcuni kazaki nei loro pascoli estivi. Quando parlai del mio interesse per lo sciamanesimo, un gentile signore anziano mi narrò di aver incontrato l'estate precedente una sciamana ancora in attività che viveva vicino all'accampamento mongolo di Tuvan. Fummo indirizzati a Marian, un'energica donna di circa 65 anni, dal viso rotondo e piatto, con alti zigomi e una massa di capelli castano-rossastri che spuntava dal foulard. Era alta circa 1,50 m ed era così sferica nel suo vestito con cintura, che costituisce il costume tradizionale mongolo degli uomini e delle donne, da sembrare un pupazzo di neve colorato e animato. Ci invitò a entrare nella yurta e ci offrì ciotole di tè salato, bollito su fuoco vivo con una manciata di sale e latte di capra. Poi ci narrò di sua madre, che era stata una sciamana rispettata, i cui bruschi movimenti a scatti e i brontolii bizzarri durante le trance l'avevano spaventata da bambina. Teneva un'ala d'uccello nella mano destra e un albero del mondo nell'altra, ricordò Marian. A volte diventava così selvaggia che avevo paura che potesse fare del male a qualcuno. Più avanti la madre aveva cercato di passare il proprio sapere alla figlia, ma a quei tempi il sistema sovietico si era già impadronito della Mongolia e Marian era terrorizzata dal rischio di essere deportata in un gulag in Siberia, se fossero state smascherate come sciamane. Aveva bruciato il costume di sua madre, sepolto gli specchi e le campane, perfino buttato parte del corredo nel fiume e le due avevano smesso di praticare. Già prima della morte della madre nel 1987, Marian aveva un po' alla volta abbandonato la pratica degli incantesimi rituali. Dopo il collasso dell'Unione Sovietica, come molte altre ex sciamane, divenne però ansiosa di far rivivere le vecchie tradizioni spirituali. Oggi Gin, il dio del cielo, viene a me e mi dice delle cose. Poi aggiunse: con il suo aiuto cerco di aiutare le persone ammalate. Mi spiegò che gli sciamani e le sciamane possono praticare solo il nono, il diciannovesimo e il ventinovesimo giorno del calendario lunare. E solo di notte. Notai qualche esitazione mentre Marian parlava e quando feci delle domande specifiche mi disse che stava ancora cercando di ricordare i vecchi metodi. Poiché era così giovane, quando lo sciamanesimo era stato messo fuori legge, che non aveva ancora assimilato tutte le conoscenze necessarie. Ci confidò tuttavia che un'altra sciamana di nome Khagan, che viveva lì vicino, si era recentemente unita alla famiglia allargata di Marian e sembrava più ferrata nelle arti sciamaniche. Chiesi di incontrare Khagan. Quando arrivammo al Ger di Khagan ed esponemmo le ragioni della nostra visita, la donna di mezz'età ci studiò con diffidenza. Ammise che sua madre era stata una sciamana, ma negò enfaticamente di praticare lei stessa. Quindi si rivolse a Marian. È qualcosa di cui non dovresti parlare. La rimproverò aspramente, in un dialetto che combinava il Tuvan mongolo e il kazako. I suoi occhi neri, freddi e il tono grave. Non dovresti dire a nessuno che siamo sciamane. Nonostante fossi un po' stupita dall'animosità della voce di Khagan, compresi che stavamo avventurandoci in un territorio delicato, quindi la ringraziai e ce ne andammo immediatamente. Non tutti gli sciamani e le sciamane ovviamente sono reticenti come Khagan. Gli studiosi dell'Accademia di Scienze di Alma-Ati hanno dimostrato che c'è stata una resurrezione di tutte le religioni sulla scia della caduta dell'Unione Sovietica e che lo sciamanesimo, combinato con l'adorazione degli dei della natura, è la forma religiosa che sta tornando con maggior impeto. Perfino quando professano altre fedi, i nomadi continuano a incorporare elementi sciamanici nei loro riti, cosa che ho avuto modo di osservare molte volte. Se ad esempio chiedevo a un kazako o a un mongolo se fosse musulmano, la risposta era sì, ma poi mi invitava a una cerimonia in cui la religione proclamata si mescolava con una schiera di dei della natura e di rituali sciamanici, rendendo il rito un ibrido incredibile. Nel 1999 fui invitata a una cerimonia dei mongoli Derbet sui monti Altai orientali. L'estate era stata estremamente secca e i mongoli desideravano disperatamente la pioggia per dissetare le loro mandrie disidratate. Le donne insistettero molto affinché mi unissi a loro. Si misero in cerchio intorno al loro uvo, luogo di culto composto da pietre accumulate, cantilenando e cantando, lanciando pezzetti di formaggio secco e di costolette di pecora bollite come offerte al fuoco scoppiettante acceso sulla catasta di pietra. Come libagioni offrirono all'uvo gocce di latte. Di tanto in tanto due o tre si fermavano e rivolgendosi al fuoco si inchinavano facendo speciali offerte o richieste prima di continuare nella processione. Mi venne spontaneo chiedermi se gli elementi di questo rito potessero avere avuto origine ai tempi delle sacerdotesse. Sembrò che gli dèi avessero gradito la cerimonia perché iniziò a piovere subito. Più cose imparavo sulle attuali pratiche sciamaniche, più queste mi ricordavano l'osservazione che le culture della steppa portano avanti le vecchie tradizioni. Le libagioni e i sacrifici e i cibi rituali e l'adorazione degli dèi della natura sono reminiscenze importanti dei giorni in cui le sacerdotesse Sauro-Sarmate presiedevano alla vita spirituale del loro popolo. Le sciamane moderne utilizzano ancora gli specchi per guarire, indossano copricapo e costumi durante i loro riti misteriosi e mantengono tuttora una gerarchia religiosa con i diversi livelli che presiedono alle famiglie, ai clan, alle tribù. Quando una donna kazaka ha le doglie, gli uomini dell'accampamento si radunano fuori dalla sua tenda gridando per scacciare gli spiriti maligni che potrebbero essere in agguato. All'interno la partoriente rimane in piedi, tenendosi a corde attaccate a un palo posizionato orizzontalmente attraverso la tenda che rappresenta l'organo maschile. Le sue aiutanti accendono il fuoco e preparano una zuppa speciale di molti cereali diversi che simboleggiano la fertilità. L'usanza vuole che il bambino o la bambina nasca appena la zuppa è pronta, un processo che richiede diverse ore. Se a quel punto il feto si ostina a non voler nascere, viene versata nella zuppa dell'acqua che rappresenta il liquido amniotico della madre per accelerare la sua venuta al mondo. Si credeva anche che le anime delle giovani donne morte prima di avere figli si trasformassero in vili, creature capaci di cambiare forma, che potevano assumere l'aspetto di una fanciulla o di un cigno. Se supplicate correttamente, la loro fertilità inutilizzata poteva essere usata a beneficio dei campi, delle mandrie e delle donne che desideravano avere bambini. La dea principale degli sciti è Tabiti, la sua controparte greca è Estia, dea del focolare e della famiglia. Circa nel 450 a.C. un re proclamò Tabiti regina degli sciti, associandola agli spiriti ancestrali. Tabiti, forse la divinità più antica della loro tradizione religiosa, era legata al culto del fuoco. I giuramenti fatti su di lei erano sacri. Romperli avrebbe fatto ammalare anche il più grande capotribù ed era un gesto punibile con la morte. Nel suo libro sulle dee e gli dei degli sciti, la storica Julia Justinova sostiene che Tabiti fosse l'incarnazione del fuoco primordiale e il simbolo dell'autorità suprema. La sua posizione di spicco, insieme alla generale superiorità delle divinità femminili nel Pantheon Scita, è stata interpretata da altri studiosi come prova del ruolo predominante delle donne nelle prime società matriarcali. Il Xinjiang, la regione non molto popolata del nord-ovest della Cina, è circondata da alcune tra le più alte catene montuose del mondo, gli Altai, il Pamir e il Tien Shan. Circa un quinto del Xinjiang racchiude il deserto più arido dell'Asia, il Taklamakan, dove le mummie erano state portate alla luce da archeologi cinesi circa 2 decenni prima. Fui immediatamente attratta da una donna recuperata da una tomba sul confine sudorientale del deserto del Taklamakan, antica di circa 2500 anni. Era vestita con un abito di color ruggine ancora vivido, aveva calze di feltro, stivali di pelle chiara di daino. Era distesa sulla schiena, con le ginocchia sostenute da bastoni e un cuscino sotto la testa. Le mani, ordinate e ben curate, erano posate sull'addome. I polsi erano legati insieme con una corda di lana intrecciata. Un passante sotto il mento era annodato in cima alla testa per mantenerle le mascelle chiuse, ma si era allentato nel tempo e ora la sua bocca era un po' aperta, rivelando una buona dentatura e una lingua raggrinzita. Sul viso erano state dipinte o tatuate delle spirali che richiamavano immediatamente alla mente i disegni usati dagli antichi nomadi per ornare le placche animali. In quel periodo non avevo ancora iniziato i miei scavi sauro-sarmati e solo successivamente mi resi conto che questi motivi a spirale, visti così spesso nell'arte della steppa, indicavano verosimilmente il suo rango di sacerdotessa. Osservando attentamente i suoi tratti durante la prima visita, mi resi improvvisamente conto che la donna non aveva i tratti asiatici che mi aspettavo, bensì aveva lineamenti caucasoidi. Il volto era allungato e l'attaccatura del naso alta. Le orbite ben definite suggerivano occhi grandi e rotondi, i capelli erano una massa bruno-rossiccia, striata di grigio, ed era alta più di 1,80 m. Da questa tomba furono recuperate 3 donne, le altre 2 erano conservate meno bene. L'opinione prevalente in Cina era che quest'area fosse sempre stata abitata da popolazioni mongoloidi a partire dalla diffusione dell'Homo sapiens intorno al globo alla fine dell'era glaciale. Un gruppo di esploratori occidentali era da tempo a conoscenza dell'aspetto europoide di queste mummie cinesi, ma niente era apparso sulla stampa popolare americana fino a 3 anni dopo. Come mai c'era voluto così tanto tempo perché si diffondesse la notizia? Questa domanda rispecchiava la situazione in cui mi ero trovata con le donne guerriere delle steppe eurasiatiche. Gli scienziati russi conoscevano la loro esistenza da decenni. Ben prima dunque che la mia spedizione facesse uscire le nostre guerriere principesse dalle loro tombe di Pokrovka. ma non sapevano cosa farsene di questa informazione, perché non rientrava nell'immagine comune di queste popolazioni, cioè di bande di predoni senza regole dominate dagli uomini. Far rientrare in tali canoni queste donne di potere, sacerdotesse, guerriere e donne del focolare di alto rango, sembrava sconveniente o di scarsa importanza alla maggior parte delle autorità russe, così la loro esistenza fu tranquillamente rimossa. Anche nel caso delle mummie caucasoidi si era messo in moto lo stesso meccanismo. La tradizione cinese ha sempre sostenuto che la Cina abbia sviluppato la sua gloriosa civiltà in relativo isolamento, libera da influenze esterne. Quello che non ricordano è che popolazioni caucasiche erano vissute per prime nel bacino del Tarim, che contiene il deserto Taklamakan, e per molti secoli prima dell'arrivo dei cinesi Han. Ecco però saltar fuori dal deserto queste mummie ingombranti con i loro capelli chiari, gli occhi rotondi e date di nascita risalenti al secondo e al primo millennio. Le mummie furono risepolte o inviate a oscuri musei regionali, dove furono spesso conservate male ed esposte senza troppe spiegazioni. Quando fu resa nota al pubblico l'esistenza delle mummie caucasiche, il governo centrale cinese divenne molto permaloso sull'argomento. Una mummia di 2500 anni fa era una donna morta a circa 40 anni. Era stata ritrovata ordinatamente posizionata sul dorso, con le ginocchia sostenute da canne e la mano sinistra alzata, nel gesto che in tutto il mondo indica come benigno gesto di benedizione. I suoi lunghi capelli di un castano ramato erano legati in trecce ordinate e piccoli ciuffi di lana colorata erano stati collocati nelle narici. Nessuna ruga sciupava la liscia superficie del suo viso e delle ciglia lunghe e spesse le contornavano gli occhi. Era alta, circa 1,75 m, slanciata e formosa. Notai che il viso era piatto ma allungato e che il naso prominente era stretto e non rientrava tra i tratti mongoli. Disegni dipinti o tatuati, in particolare le spirali che le coprivano parte delle mani e del viso, ricordavano quelli trovati su altre mummie. A quell'epoca sapevo già che tali disegni significavano che era stata una sacerdotessa, supposizione confermata dal suo corredo funebre, che includeva un altare, cucchiai rituali e quadrati di lana bianca dipinti con disegni in movimento rossi e ripetuti. Furono poi trovate coperte tessute a linee diagonali sulle mummie, che presentavano una somiglianza stupefacente con una serie di tessuti della stessa epoca provenienti dall'Europa centrale indossati dagli antenati dei Celti. Impressionante quanto questi disegni, colori e stoffe assomiglino a quelli dei moderni tartan scozzesi delle Highlands. Gli studiosi di linguistica indoeuropea, che analizzano le antiche e ora estinte lingue proto-indoeuropee, confermano un collegamento tra questi popoli delle mummie e le popolazioni proto-celtiche sulla base di una serie di testi scoperti intorno al 1890 in vari siti che circondano il deserto Taklamakan. Nessuno può essere esattamente sicuro su quali tipi di interazioni siano avvenute tra i popoli delle mummie e i nomadi, che erano caucasoidi e parlavano lingue imparentate con quelle indo-iraniane migliaia di anni fa. Gli ampi tatuaggi e le trecce di capelli castano rossicci delle mummie caucasoidi, tratti così estranei alla Cina attuale, non potevano non stimolare la mia immaginazione verso altre ipotesi su questi antichi viaggiatori. Possiamo solo ipotizzare i percorsi dei loro viaggi e i motivi che li hanno spinti a raggiungere questo territorio così caldo e secco. Sono arrivata nello Xinjiang in cerca di prove archeologiche sulla presenza dei Saka nell'area e di tracce di loro legami con i Saka del Kazakistan. Molti oggetti ritrovati nei musei e nei siti funerari confermavano le mie ricerche, e allora ho iniziato a chiedermi in che modo questi nomadi così avventurosi potessero aver influenzato le popolazioni stanziali che avevano incontrato. Sembrerebbe che intorno al 2000 a.C. una popolazione caucasoide sia arrivata da ovest e si sia stabilita al confine del deserto Taklamakan, vivendo di agricoltura e addomesticando pochi animali, tra cui asini e pecore, per la propria sussistenza. Sappiamo che a partire dal 750 a.C. buona parte delle popolazioni sedentarie aveva abbracciato lo stile di vita nomade, perché a quell'epoca si iniziano a notare visibili cambiamenti nello schema sepolcrale e nei corredi funerari. Nelle fosse votive adiacenti alle tombe sono stati trovati zoccoli di cavalli, fruste e briglie. La Battria fu l'antica terra, ora nel nord dell'Afghanistan, che doveva essere stata la porta principale tra est e ovest, molto prima della Via della Seta dei cinesi e dei romani o di Marco Polo e dell'imperatore cinese mongolo Kublai Khan. Non è mai stato nei miei scopi quello di cercare le origini della Dea Madre. Tuttavia, studiando l'arte e la storia di qualunque antica cultura del Medio Oriente e dell'Asia centrale, si incontra subito e ovunque la sua forte presenza. Così, pur preferendo seguire i nomadi, senti l'imperioso richiamo del mistero della Dea Madre. Qualsiasi studio sulle religioni antiche deve iniziare nella Turchia del Sud. Qui vi è un tumulo di 13 ettari, noto come Çatalhöyük. Hök significa tumulo in turco. Il più famoso manufatto di sotterrato è una scultura di terracotta piuttosto grande, raffigurante una donna a figura intera nell'atto di partorire seduta tra due grandi leopardi. Çatalhöyük è situata a 45 minuti di strada a sud di Konya, una moderna città islamica nel cuore della Turchia. Le rappresentanti del Frauenmuseum, il Museo delle Donne di Monaco, hanno difeso appassionatamente e con ricchezza di argomentazioni la validità dell'ipotesi che il sito di Çatalhöyük dimostri l'esistenza di una cultura del Neolitico dedita al culto della Dea Madre. La signora con i leopardi evoca un essere potente e il concetto di grande Dea Madre, signora degli animali, era ampiamente consolidato in Mesopotamia, in Anatolia e in Siria. All'inizio del secondo millennio avanti Cristo, la signora degli animali apparve anche sui cosiddetti sigilli a rilievo della Battria, così come nelle opere d'arte del XVII secolo avanti Cristo, dove cavalca un leone in posizione da amazzone. La signora degli animali è solo una delle forme della grande Dea Madre, o Matar, menzionata in circa una dozzina di incisioni frigie su roccia a partire dall'inizio del primo millennio avanti Cristo. Oltre a esercitare il controllo sulla natura selvaggia, Matar era la madre degli dei, degli esseri umani e degli animali. Guariva i malati, proteggeva i fedeli in tempo di guerra, era associata alle montagne e alla fertilità. Concedeva liberamente raccolti fruttuosi, bestiame prolifico e la benedizione di molti figli e figlie. Nella Frigia occidentale alcuni rilievi la ritraggono con in braccio un cucciolo di leone, affiancata da leoni che le tengono le zampe sulla testa. Era una dea sovrana, nel senso che i re frigi dovevano unirsi in ierogamia, matrimonio sacro, con le sue sacerdotesse per legittimare il proprio diritto al trono. Come Lilith e altre divinità femminili, agli inizi Matara era una figura potente e benevola. Ma col passare dei secoli il suo culto divenne pericoloso per le nuove società sempre più patriarcali e nel tempo emerse un suo ritratto più complesso e oscuro. La multiforme Matar assunse le sembianze della grande dea Cibele. Rimase sempre una dea potente e il suo inevitabile rapporto con il figlio amante fu rappresentato in molte versioni della sua leggenda. Tornando agli uomini che si travestono da donne e attuano come sciamane, un fattore che contribuì alla diffusione dell'evirazione a scopi religiosi fu la credenza corrente che la natura femminile consentisse di comunicare meglio con gli dei. Non a caso così tanti culti antichi erano guidati da donne. Anche senza arrivare all'autocastrazione, i devoti maschi di molte culture usavano travestirsi per diventare più intuitivi e spirituali. Sia gli eunuchi che i travestiti esibivano il loro cambiamento di genere, sbiancandosi il viso, indossando vestiti e gioielli da donna e adottando tutti i manierismi femminili, arrivando a volte a sposare altri uomini. Il culto della Dea Madre ha percorso un lungo cammino nell'arco di millenni, perché commercianti, cavalieri e viaggiatori contribuirono a diffondere credenze e rituali nelle culture con cui entravano in contatto. La presenza della Dea Madre nella Battria, durante i primi secoli del secondo millennio avanti Cristo, rimane affidata solo alle testimonianze artistiche che la raffigurano come una donna a cavallo di un potente felino. Sempre nella forma di signora degli animali, la dea ricompare in Anatolia, dove delle iscrizioni la definiscono per la prima volta come Magna Mater, la Grande Madre, la cui natura benigna veglia sui suoi fedeli. Nel giro di alcuni secoli, i greci entrarono in Anatolia e con la sottomissione della Grande Madre e la loro influenza patriarcale, la sua natura, come cibele, subisce una trasformazione diventando non più solo benevola. La natura dei riti diventa più oscura, i suoi sacerdoti si evirano sacrificalmente in suo onore durante i riti orgiastici. Il fascino di questi culti perdura e passa nella terra degli Sciti, a Oriente, e verso Roma, a Occidente, dove Cibele è sempre più venerata, mentre i suoi eunuchi acquisiscono potere in ambito religioso e anche politico. Entro il primo secolo avanti Cristo, la Dea Madre compie un giro completo, ritornando all'antica Battria, dove appare nuovamente a cavallo di un potente felino, sulla cintura sacra di un grande sacerdote nomade, forse un travestito o un eunuco. I corredi d'oro delle tombe di Tillia Tepe rivelano il rango elevato dei defunti e l'iconografia di questi ornamenti li indica come adepti dell'antica Dea Madre. È dimostrato che il travestitismo religioso è stata una pratica durevole in molte parti del globo. In ogni parte del mondo, dalla moderna Eurasia all'India, alla Corea, all'Indonesia, all'Africa e alle Americhe, rabdomanti e sciamani hanno indossato abiti e adottato manierismi femminili. Questi uomini morbidi, tra virgolette, come furono chiamati in Siberia, venivano introdotti nell'universo femminile attraverso cambiamenti sessuali e rituali o cerimonie androginiche. A seconda della cultura, alcuni vivevano con le donne per assorbire ulteriore potere femminile, mentre altri si sposavano con degli uomini. Come molti sciamani siberiani, furono considerati anomali e vissero isolati dalla società, rispettati per i loro poteri di guarigione e divinazione, ma temuti per le loro abitudini e il loro stile di vita inusuale.